Donne, donne, donne, che l'amore trasformerà. Mamme, mamme, mamme, questo è il dono che Dio vi fa, tra batuffoli e fasce, mille sogni nel cuore, per un bimbo che nasce, quante gioie e dolore. Son tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore, son le bellezze d'un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amor. È tanto bello quel volto di donna, che veglia un bimbo e riposo non ha. Sembra l'immagine d'una Madonna, sembra l'immagine della bontà. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma non sfiorirà la loro beltà. Son tutte belle le mamme del mondo, grandi tesori di luce e bontà, che custodiscono un bene profondo, il più sincero dell'umanità. Mamme, mamme, mamme, quante pene l'amor vi dà. Ieri, oggi, sempre per voi mamme non c'è pietà. Ogni vostro bambino, quando uomo sarà, verso il proprio destino, senza voi se ne andrà. Belle le mamme del mondo, ma soprattutto più bella tu sei, tu che m'hai dato il tuo bene profondo, e sei